talking, but I know you have. Yes. Your face I had the experience one Russian fox. We have been talking for a long time. Yes. Ogni amore che cani non mi vede vergogna. Arretale di russo se gli lipsi. Io un burini di fiche strappi lì. E richiesti se dovessi. Un signor se flash non vado. Dovessi lì che non si usi gli occhi. One.